GR24, il sole 24 ore. Corruzione, il governo mette la fiducia. Severino, interverremo anche sull'incandidabilità dei condannati. La riscossa di Obama, il presidente all'attacco vince contro Romney nel dibattito. Ormoni ai bambini, indagati 67 medici. L'antitrust europeo interviene sui fondi alle imprese per le calamità, potrebbero violare le norme sugli aiuti di Stato. Una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione di GR24. In apertura dunque parliamo del DDL sulla corruzione che inizia il suo iter al Senato. Il governo mette la fiducia. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Il governo blinda il DDL anticorruzione con il voto di fiducia che i senatori dovranno esprimere su un maxi emendamento interamente sostitutivo del provvedimento. Il Via Libera potrebbe arrivare anche in giornata ad annunciare il ricorso alla fiducia al ministro della giustizia Severino, intervenuto questa mattina nell'aula dove era presente anche il premier Monti. Il guardasigilli ha difeso il suo operato. Siamo un governo di onesti e non facciamo inciuci, basta con chi vuole solo demolire. E ha difeso una riforma che a suo dire affronta il problema della corruzione in modo adeguato, al contrario di quanto accadde all'indomani di Mani Pulite, quando la politica cercò di rallentare l'azione della magistratura. Ma sentiamo la sua voce. Combattere la corruzione vuol dire tagliarne le premesse e intervenire premendo, e laddove la prevenzione non abbia funzionato, intervenire con la sanzione penale. Dunque è un disegno unitario, un disegno importante, un disegno nuovo nel coniugare questi due aspetti, e credo che di questa novità tutti dobbiamo dare testimonianza, perché è il filo conduttore di una riforma che si colloca tra le riforme importanti di questo Parlamento. Quanto al tema dell'incandidabilità, il ministro ha assicurato che il governo interverrà tempestivamente dopo l'approvazione del DDL anticorruzione per impedire la candidatura di soggetti condannati in via definitiva, mentre sul voto di scambio attende le sollecitazioni del Parlamento. Il governo, ha detto Severino, se richiesto potrà intervenire in tempi rapidi anche su questa materia. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. A New York adesso, dove nella notte c'è stato il secondo faccia a faccia tra Obama e Romney. Il dibattito televisivo Obama-Romney questa volta, stando ai più importanti media americani, è andato ad Obama, che è apparso più aggressivo ma senza essere arrogante. I temi centrali sono stati tre: tasse, occupazione e politica estera. Anche questa volta c'erano le domande dal pubblico, questo uno dei passaggi. Obama appare aggressivo mentre Romney tentenna. Sulla Libia in particolare Romney scivola. A tirare in ballo la questione infuocata degli attacchi di Bengasi è un uomo dal pubblico. Forte anche dell'aiuto arrivato il giorno prima dal segretario di Stato Hillary Clinton, Obama risponde con fermezza dicendo: non si strumentalizza la sicurezza nazionale per speculazioni politiche. E questo è il primo colpo agli attacchi di Romney e dei repubblicani sulla cattiva gestione degli attentati in Libia. Obama continua: io sono responsabile di quello che è successo. Troveremo chi ha ucciso Stevens. Romney invece attacca con un'ira fuori luogo e poi però inizia a balbettare in chiara difficoltà. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dunque tasse, occupazione e politica estera, questi i tre temi del duello TV. L'elettorato è diviso tra chi sogna un'America più protettiva per le fasce deboli e chi ha un sogno americano più individualista, più classico se vogliamo. Come racconta il professor Massimo Teodori, intervistato sempre da Cristina Carpinelli. Ormai c'è una notevole distanza, diciamo, fra la parte più disagiata della popolazione. Non bisogna dimenticare che ormai i non bianchi e soprattutto i latinos, oltre ai neri, rappresentano una parte notevole dell'elettorato americano, e fra questo elettorato, questa parte della popolazione, cioè quella più disagiata, sicuramente il sogno americano è legato a un'iniziativa dello Stato, un'iniziativa del sociale, di maggiori spese sociali. L'altra parte, invece quella che ha maggior benessere, soprattutto la classe media bianca, più con maggiore età, quella invece vuole tornare alla vecchia America dell'individualismo, che ritiene che lo Stato sia troppo ingrossato, spenda troppo per le spese sociali e via di seguito. E siamo ai mercati, è una giornata positiva quella di oggi anche dal lato dei titoli di Stato. Deborah Rosciani, buongiorno. Sì, buongiorno. Le borse europee stanno decisamente consolidando i rialzi messi a segno ieri sulla prospettiva appunto di questi aiuti che dovrebbero essere conferiti alla Spagna, a condizione che dovrebbe allentare notevolmente anche la crisi europea. Milano sta guadagnando l'1,23%, oltre un punto di rialzo sulla Spagna, Parigi più 0,4%, più tranquilla Francoforte più 0,2%, Londra più 0,50%. Scoppiettante anche l'andamento dell'euro sul dollaro a 1,31,21. Le buone notizie riguardano anche le agenzie di rating, perché Moody's ha lasciato invariato il rating della Spagna per il momento, confermando il livello di investimento anche se l'outlook rimane negativo. Naturalmente questa situazione si riflette anche sull'andamento del mercato obbligazionario. Lo spread fra BTP e Bund ritorna sui 320 punti base, livelli che non si vedevano da 6 mesi a questa parte. Anche il differenziale fra i bonus spagnoli e il Bund tedesco è sotto i 400 punti base. A proposito dell'andamento dello spread italiano, questa mattina abbiamo sentito a Salvadanaio Maria Cannata, direttore del debito pubblico del Ministero dell'Economia. L'abbiamo intervistata a proposito della sottoscrizione in corso per il BTP Italia, che ha già raggiunto il record di marzo. Stamattina siamo sui 7 miliardi di euro già sottoscritti dagli investitori italiani. Sentiamo cosa ha detto la dottoressa Cannata a proposito di questo andamento dello spread. Siamo sicuramente più tranquilli perché diciamo la comunicazione della BCE di inizio settembre ha rassicurato moltissimo gli investitori, anche internazionali, e quindi noi da inizio settembre, anzi qualche segnale si era già visto anche un po' prima, stiamo vedendo tornare gli investitori anche stranieri sui nostri titoli ordinari. Poi il BTP Italia è una cosa invece più domestica, proprio pensata per i risparmiatori domestici, e diciamo completa un quadro estremamente positivo in questo momento. Margini di miglioramento senz'altro ci sono, se non ci sono sorprese negative il trend continuerà. Cambiamo argomento e grazie nel frattempo a Deborah Rosciani. Al centro dell'inchiesta che viene indagati per corruzione i vertici della Compagnia delle Opere di Bergamo, c'è anche una delibera approvata dalla Giunta Formigoni nell'aprile 2011 su richiesta dello stesso governatore, che sbloccava in sostanza l'iter per l'avvio di una discarica di amianto in provincia di Cremona. Come ha accolto l'ambiente ICL la notizia di questa inchiesta? Il movimento è preoccupato per l'ennesimo scandalo connesso alla giunta del presidente Lombardo. Maria Luisa Pezzali lo ha chiesto a Mario Mauro, vicepresidente del Parlamento Europeo, capogruppo del PDL a Strasburgo e componente di spicco del movimento. Ben conosco il presidente della Compagnia delle Opere locale, Rossano Breno, che è una persona di grandi qualità, rispetto alla quale mi sento di spendere in amicizia una parola, ritenendo una persona profondamente onesta, credo totalmente innocente. Oggi Dario Di Vico sul Corriere della Sera scrive: trovare un cielino che tifi per Formigoni è difficile e ormai da tempo. È un'osservazione che dal punto di vista politico lei condivide? Io non solo so che non c'è nessuna candidatura a Formigoni, ma sono fortemente impegnato per quello che ritengo il candidato più giusto per il centrodestra in questo momento in Lombardia. Si chiama Gabriele Albertini e può essere la prospettiva buona per ricomporre il centrodestra. Ascolterete l'intervista integrale tra poco in Italia in Controluce. La puntata di oggi è dedicata proprio al nuovo scandalo che sfiora Formigoni e arriva al cuore della Compagnia delle Opere. A proposito di Formigoni, il presidente Lombardo sta parlando in questi minuti, fa sapere che il 25 ottobre, ossia giovedì prossimo, cioè non giovedì di questa settimana ma della successiva, si scioglierà il Consiglio regionale della Lombardia. Dice che è possibile un voto prima di Natale, le elezioni potrebbero essere il 16 o il 23 dicembre, e ancora aggiunge: non mi rottama nessuno. Comunque non si sa ancora quando si andrà al voto, ma già è iniziato il toto candidati. Si è fatto il nome per il centro-sinistra di Umberto Ambrosoli, che però non ha ancora sciolto la riserva. Si parla anche di Giuseppe Civati, del segretario regionale del PD, Maurizio Martina, entrambi trentenni, si è detta disponibile a correre invece Alessandra Kusterman, la fondatrice del centro di soccorso violenza sessuale, e anche Bruno Tabacci, assessore al bilancio del comune, che è già stato presidente della regione dall'87 all'89, ma ora invoca prudenza. Sentiamolo al microfono di Anna Marino. Io non so neanche cosa succede in Lombardia, mi pare una sessione mal posta oggi, perché lei sa quando si va a votare? No, ho avuto l'impressione di un gioco delle parti, dagli esiti non solo molto incerti, ma anche con una caduta di stile notevole tra le forze della maggioranza della regione Lombardia. Quindi non so cosa, dicono che domenica c'è un'assemblea della Lega in tutti i punti della Lombardia, 1000, 2000, quindi non so che cosa decideranno. E quindi nel frattempo appunto è poco di che prepararsi, voglio dire, mi pare che il livello di degrado a cui siamo arrivati è così pesante che prima si chiude questa finestra, meglio è, però non dipende da me chiuderla ovviamente. Tempi stretti, secondo lei, sono necessari per andare di nuovo al voto? Tempi stretti sono fissati dalla legge. Se Formigoni si dimette, con esso cade il Consiglio regionale, automaticamente si innesca la procedura. Ma senza questi fatti è come parlare d'altro, no? Secondo lei è ancora prematuro parlare di candidature, prematuro parlare di... Certamente il fatto che si voti prima di Natale o immediatamente dopo, che si vota ad aprile, sono cose del tutto differenti, no? Se si vota ad aprile, si vota dopo le elezioni politiche. Questo da parlare di candidature che ancora non si capisce dove vanno a parare. E adesso le questioni politiche più nazionali. Parla in questi minuti il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani sulle sue parole di ieri a proposito di Massimo D'Alema. Dice: questa polemica la chiudiamo, ho letto che io scaricherei, caccerei, ho detto una cosa chiara, i deputati non li nomina né Berlusconi né Grillo né Renzi né Bersani. E aggiunge: può essere che si conosca poco D'Alema, sul concetto di rottamazione combatterà fino alla morte, ma sul rinnovamento c'è. Il punto di Stefano Folli è dedicato proprio appunto alle vicende politiche nazionali. Il punto di Stefano Folli. Gli ultimi sondaggi danno il Partito Democratico in discreta crescita e il suo competitore storico, il Partito Berlusconiano, in costante calo, superato di nuovo dal movimento di Beppe Grillo. Non stupisce. Il PDL vaga nell'immobilismo più totale, nonostante la buona volontà di Alfano. Paga gli scandali del Lazio e della Lombardia, dove il potere era nelle mani del centrodestra, e soprattutto sconta l'incertezza di Berlusconi, il suo non saper scegliere fra un definitivo ritiro e una nuova iniziativa politica. Per contro, il PD di Bersani è tormentato dalle sue vicende interne, ma intanto fa parlare di sé, che in politica conta molto. Si parla di Renzi in particolare e poi di Veltroni che non si candida più, si discute del caso D'Alema. Bene o male, il partito di Bersani dà l'idea di un faticoso processo di rinnovamento in corso. È già qualcosa, mentre dall'altra parte sembra che ci sia la paralisi e l'elettorato in fondo si accontenta. E ora cambiamo argomento, andiamo a SMAU che si è aperta a Milano ed è stata presentata una ricerca del Politecnico di Milano che fa i conti sull'agenda digitale. Enrico Pagliarini in diretta da Milano. Buongiorno, vi parlo dallo SMAU che è aperto questa mattina dal nostro studio, da cui poi trasmetteremo anche alcune trasmissioni di Radio 24. Questa mattina è stata presentata la prima ricerca, i primi risultati dell'osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, della School of Management del Politecnico di Milano, che ha calcolato in circa 20 miliardi di riduzione di costi e 5 miliardi di maggiori entrate per la pubblica amministrazione nel giro dei prossimi 3 anni in caso di attuazione di tutti i processi. Ne abbiamo parlato con il professor Andrea Rangone, che è il responsabile scientifico di questo osservatorio, che ci ha sottolineato 2 ambiti da cui potrebbero arrivare grandi risparmi, ma sui quali per il momento l'agenda digitale non si è concentrata. Sentiamolo. In particolare siamo andati a vedere a questo riguardo gli impatti di un utilizzo un pochino più diffuso dell'e-procurement, quindi degli strumenti digitali per negoziare e comprare beni delle nostre pubbliche amministrazioni. Peccato che tutto sommato in questo momento si sia mosso solo una piccola percentuale del nostro sistema pubblico ad adottare questi strumenti. Ecco, un ingresso normativo un pochino più forte sicuramente porterebbe ad una diffusione maggiore, e noi abbiamo ipotizzato che anche solo intercettando un 30% del totale acquisti della pubblica amministrazione, che non è una cifra elevatissima, no? Potremmo portarci a casa un 7 miliardi di euro di benefici, divisi fra saving e incremento di produttività delle persone. Ecco, questo è un primo ambito. Un altro ambito importante è quello della fatturazione elettronica. Abbiamo dal 2008 una bellissima legge, peccato che manchi il decreto attuativo ormai da 3 anni, ci vorrebbe poco, no? Ecco, l'ingresso di questo decreto attuativo renderebbe obbligatorio la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione. Anche solo questa componente abbiamo stimato che potrebbe portare un risparmio alla pubblica amministrazione di circa 1 miliardo di euro, invece ai fornitori della pubblica amministrazione, quindi al mondo privato, un altro miliardo. E grazie anche ad Enrico Pagliarini per il collegamento da Smau. E ci occupiamo di un'indagine sulla sanità, 77 perquisizioni e 80 di indagati, l'indagine del NAS dei Carabinieri in una 15 di regioni, nel mirino l'attività di una rete di informatori scientifici che per incrementare le vendite di alcuni tipi di farmaci prometteva denaro, viaggi e altri beni materiali ai medici responsabili delle prescrizioni, e venivano prescritti anche ormoni ai bambini. Ci sono 67 medici indagati. Il colonnello Diomede Vito Antonio, vicecomandante del settore tutela salute dei NAS, al microfono di Luisa Perona. Parliamo di truffa al Servizio Sanitario Nazionale, parliamo di corruzione, di comparaggio. Il fenomeno può essere particolare, questo perché sono interessati anche pacienti pediatrici, e perché trattandosi di terapia ormonale, di un farmaco che sostanzialmente è un ormone della crescita, bisognerà poi valutare effettivamente l'impatto sulla salute. Parlando di ormone della crescita, è possibile che ci si approfittasse del dolore di alcune famiglie con casi di malattie particolari? Direi di sì, direi che è possibile, adesso lo approfondiremo. Restiamo in tema di sanità, sarebbero oltre 2 milioni le dosi di vaccino antinfluenzale ritirate dal mercato italiano, nessun rischio secondo il Ministero. Sentiamo cosa è dovuto il ritiro e se lo slittamento, ormai più che probabile, della campagna di vaccinazione porterà conseguenze. Il dottor Giorgio Ciconali, direttore del Servizio Igiene Pubblica della ASL di Milano, al microfono di Valeria De Rosa. Se è stato ritirato, non è stato ritirato perché il vaccino in toto o una sua componente è pericolosa. Si tratta probabilmente di un problema di efficacia, cioè questi qui che già di loro natura hanno una efficacia che non è del 100%, perché proprio la vaccinazione antinfluenzale è molto utile, ma non ha delle percentuali, diciamo così, di efficacia così elevate. Si tratta di mettere quindi in commercio il vaccino più efficace possibile, che contenga tutti gli antigeni possibili. Conseguentemente in questo caso sono stati rilevati dei deficit dal punto di vista della qualità che compromettono un po' evidentemente questa efficacia. Il vaccino antinfluenzale è delicato da fabbricare, diciamo così, dal momento che tu lo devi fare nei mesi precedenti la campagna antinfluenzale, e quindi tutte le ditte che sono impegnate in questo sono costrette, tra virgolette, a dover darci dentro nell'ultimo periodo utile. E ora a Bruxelles per la decisione dell'antitrust europeo a proposito degli aiuti di Stato. Forse ci sono stati aiuti di Stato, si è violata la normativa sugli aiuti di Stato nei fondi per le aziende colpite da calamità. In diretta da Bruxelles Antonio Pollio Salimbeni. Antonio, in cosa consiste questa vicenda? Ma la Commissione europea ha aperto un'inchiesta approfondita per verificare se le misure che l'Italia negli anni, diciamo fin dal 1990 arrivando ai giorni nostri, ha deciso per ridurre le imposte e gli oneri previdenziali alle imprese nelle zone colpite da calamità. Parliamo, per intenderci, dal terremoto in Sicilia del 1990 alle inondazioni nel nord Italia del 94, fino poi anche al periodo 2007-2011, ricordiamo i terremoti dell'Umbria, delle Marche del 96, Molise e Puglia nel 2002, gli Abruzzi nel 2009. In sostanza la Commissione europea ritiene che le misure di sgravi fiscali e previdenziali siano state troppo generali, siano state spalmate nel tempo per un periodo superiore ai 3 anni e quindi non siano giustificate da fatti e eventi specifici. Grazie, grazie Antonio Paolo Salimbeni. Vedremo come evolverà adesso in chiusura. Brevemente parliamo di calcio con la giornata di ieri della Nazionale. Carlo Genta, Carlo, buongiorno. Buongiorno a te Simone, buongiorno a tutti. La giornata delle nazionali, perché ieri è stato un bel giorno azzurro con anche l'Under 21 che ha vinto in Svezia, si è qualificata 3-2, vincendo 3-2 per l'Europeo 2013, ma poi soprattutto ieri sera l'Italia dei grandi nel segno di Mario Balotelli. Questo 3-1 alla Danimarca che ci proietta in cima al girone, altro risultato del nostro gruppo B, 0-0 tra Repubblica Ceca e Bulgaria. È stata una buona Italia, certamente, e abbiamo capito che ne parleremo poi in tutti i convocati, che di Mario Balotelli questa squadra non può fare a meno. Simone. Grazie Carlo, a più tardi dunque. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia con in regia Roberto Scaltritti. Il prossimo GR alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Un saluto da Adriana Fracchi e ben ritrovati per una nuova edizione di GR Spettacoli. Siamo al mulino di Chicò, il mulino che era dei miei nonni, della mia famiglia. Da domani inizieremo una cosa curiosa per questo mulino. Invece di macinare, faremo un disco con tutti i musicisti. Sarà una nuova avventura con questa strana location, come si dice adesso. Boh, speriamo che vada a finire bene. In bocca al lupo ai musicisti, a me e a tutti quanti quelli che lavoreranno con noi. L'annuncio non è una novità, ma il mezzo per comunicare sì. Francesco Guccini ha infatti scelto YouTube per confermare che da oggi inizia le registrazioni del suo nuovo disco, il 16° in studio e forse l'ultimo di una carriera iniziata nel 1967. Il nuovo disco arriverà a quasi 9 anni dal precedente, Stagioni, uscito nel 2004, e conterrà alcune canzoni già eseguite dal vivo e una serie di inediti. Billboard l'ha incoronato come l'artista che ha venduto di più nell'ultimo decennio. Stiamo parlando di Eminem, che festeggia oggi i suoi primi 40 anni con i suoi oltre 61 milioni di fans su Facebook. Con il suo rap ha sconvolto il mondo, sbeffeggiato i giganti del pop e Bush. È stato dipendente da droga, alcol e psicofarmaci. Ha vinto tutto, anche un Oscar. A 40 anni Eminem vanta una discografia da record e nella lista dei suoi premi spiccano anche 2 Grammy e 6 Billboard Music Award. Michele Placido si cimenta in Reliera al Teatro Quirino di Roma, poi in tournée in tutta Italia. Un modo per riflettere sulla paternità, come spiega l'attore ai microfoni di Elisabetta Fiorito. Shakespeare ne ho fatti abbastanza, con Strehler, con Bellocchio, insomma, con Dall'Aglio, con altri. E forse questo Reliera ci voleva a questo punto. Riguardo poi a quello che è l'aspetto, la paternità. Anche se io ho tutti i figli maschi, ho solo una femmina, ma insomma, ci sta lì che cos'è il rapporto padre-figlio, l'amor filiale, che è terribile, può essere terribile come Merrill Lear, insomma, è una bella prova per un attore che è anche padre, è una prova. Shakespeare dice che cosa attraverso questo personaggio? Che bisogna affidare ai figli la propria vecchiaia, ma poi bisogna anche salvaguardare una dignità sapendo che i giovani possono in qualche modo tradire i vecchi principi. Dal viso dell'edicolante americano affranto per la morte di Roosevelt ai muscoli di Rocky Graziano sotto l'acqua della doccia, arrivano al Chiostro del Bramante gli scatti fotografici di un giovanissimo Stanley Kubrick. In mostra per un solo mese da venerdì e fino al 25 novembre oltre 160 scatti realizzati tra il 1945 e il 1950, quando il futuro regista di film come Lolita, Arancia Meccanica e 2001 Odissea nello spazio aveva solo 17 anni e lavorava per la rivista USA Look Magazine. Presentato a Cannes lo scorso 18 maggio, arriva da domani l'ultimo film firmato da Sergio Leone, C'era una volta in America, in edizione integrale con 26 minuti in più e mai vista prima. Appuntamento dunque nelle sale di The Space Cinema e in altre, in tutto 70 schermi, per soli 4 giorni a partire da domani. È tutto per questa edizione di GR Spettacoli, un saluto da Adriana Fracchia.